Punto 30. Francesco di Sales era un vescovo francese vissuto a cavallo fra il XVI e il XVII secolo. Per diffondere la sua predicazione in un'epoca in cui il calvinismo era in ascesa, pubblicava e diffondeva fra i suoi fedeli fogli stampati che faceva scivolare sotto le porte delle case o inchiodava ai muri della città. Per questo, divenuto santo, fu scelto dalla Chiesa come patrono dei giornalisti. E non è un caso che domani, vigilia della sua festa, si aprirà il 17° congresso dell'UCSI, Unione Cattolica Stampa Italiana, un congresso che festeggia, fra l'altro, i 50 anni di attività dell'Unione. Tema di quest'anno, la crisi del sistema dei media in Italia, e una domanda: informazione senza etica? Parliamo di informazione con Vania De Luca, giornalista di Rai News 24, nonché neoeletta presidente dell'UCSI Lazio. Oggi ci sono problemi come la responsabilità, l'equilibrio, la competenza, l'autonomia, che sono delle esigenze per tutti i giornalisti e dovrebbero essere caratteristiche di tutti i giornalisti. C'è una crisi di credibilità anche dei giornalisti, che non sempre per responsabilità solo loro sembrano non avere più la fiducia degli italiani. Ecco, anche se l'autocritica per la categoria giornalistica pure può fare bene, in generale una categoria giornalistica delegittimata spesso anche strumentalmente non fa bene alla democrazia. Visto che si sta avvicinando la festa di San Francesco di Sales, vorrei chiederti un augurio per tutti quei giovani che in questo periodo stanno intraprendendo la carriera di giornalisti. Sì, oggi è più difficile che in passato. Nei fatti si va verso una generazione di precari, quelli dei tanti giovani che vogliono intraprendere questa professione. L'augurio è innanzitutto quello di non scoraggiarsi e poi di sfruttare anche la caratteristica dei giovani che sono dei nativi digitali. Voi giovani siete nati nel sistema digitale che noi invece abbiamo appreso da grandi, e questa è una cosa molto importante perché oggi si fa giornalismo con le nuove tecnologie. Punto 30, Massimo Camussi. Punto 30, il radiogiornale della capitale.